dico a voi che sa bene impugnar la pistola, la pistola. In un altro che sa ben suonar la mandola, la mandola. Due fratelli che sembrano aver un cuor solo, la la la la, van cantando da you'll be